Al telefono con Donatella di Palermo del Movimento Femminista Proletario Ciao. Rivoluzionario. Ciao. Ciao. Allora, vi state preparando per lo sciopero delle donne di cui già abbiamo parlato qualche martedì fa e da Palermo come ci state lavorando? Sì, proprio in questo momento siamo infatti in assemblea con le lavoratrici e i lavoratori, in particolar modo con le precarie e le cooperative sociali. Abbiamo praticamente fatto una discussione, diciamo, sullo sciopero del 6, l'abbiamo analizzato perché secondo noi questo non è, cioè è stato dichiarato dalla CGIL sciopero generale, però per noi lo sciopero generale è tutt'altro. Lo sciopero generale, specialmente nella fase in cui stiamo, cioè la fase che stiamo vivendo, è uno sciopero che veramente deve bloccare i posti di lavoro, paralizzare le città, creare veramente quel contrasto e quella lotta che è necessaria oggi davanti agli attacchi che subiamo tutti in generale, ma doppiamente, diciamo, come donne nei posti di lavoro e anche fuori dai posti di lavoro. Quindi noi scenderemo in piazza, ci stiamo organizzando a Palermo, andremo, diciamo, al concentramento portando naturalmente i nostri contenuti, per portare, diciamo, un messaggio diverso, diciamo, anche alle altre lavoratrici e lavoratori che ci saranno lì presenti. E poi pensiamo di spostarci, diciamo, nella piazza dove ci sarà, diciamo, il comizio finale, perché abbiamo proprio intenzione di fare azioni anche, diciamo, di vera e propria contestazione nei confronti, diciamo, della CGIL, intesa non tanto come base, cioè come lavoratori, come lavoratrici, ma più come dirigenza, diciamo, sindacale, perché non ci accontentiamo più delle magre sfilate, delle semplici passeggiate che poi alla fine non ci porta a niente, ma vogliamo, diciamo, mettere in campo una lotta reale, concreta, che sia veramente di disturbo nei confronti del governo, delle istituzioni, diciamo, dei padroni. E nel nostro piccolo, comunque, giornalmente cerchiamo di farlo con le lotte che portiamo avanti. Per esempio questa lotta, appunto, delle precarie delle cooperative sociali. In queste lotte che portiamo, oltre, diciamo, a un contenuto di classe, quindi di attacchi, ecco, cioè che in maniera generalizzata riceviamo tutti alle condizioni del nostro lavoro, però vogliamo portare anche un altro aspetto specifico, che è quello, appunto, come donne, diciamo, degli attacchi anche che riceviamo, diciamo, dal punto di vista del genere. Perché, per esempio, queste lavoratrici con cui ora spero parlerete ne possono raccontare di tutti i colori, diciamo, a prescindere, ecco, l'attacco che ricevono sul lavoro fatto, appunto, di stipendi non pagati, di lavori sempre più precari, di ansia se il lavoro te lo rinnovano, eccetera. Però quando si è donne a volte si ricevono anche altri tipi di attacchi, quindi ricatti fatti proprio perché sei donna, tentativi anche di molestia, ecco, sul posto di lavoro, costrizione a firmare la lettera di dimissione in bianco. Insomma, è tutta un'altra serie di cose che sono anche più specifiche al fatto di essere, diciamo, donne. Quindi noi giorno 6 porteremo contenuti generali, ma anche contenuti più specifici, lanciando ancora una volta l'appello allo sciopero nello sciopero, inteso come lo sciopero delle donne. Bene, senti, vuoi passarci, vuoi presentarci, sì, introdurci? Intanto Giorgia, che è una delle lavoratrici, sì, delle precarie, diciamo, cooperative sociali, peraltro anche tra le responsabili, che ti può raccontare qualcosa di più rispetto alla loro lotta? Va bene. Sì, pronto? Pronto, ciao. Ciao Giorgia. Ciao, piacere, io sono Giorgia. Io sono Daria, qui stiamo in radio, in diretta da Roma, dal martedì autogestito da femministe e lesbiche. Allora, tu sei una precaria delle cooperative sociali che lavorano nelle scuole superiori, che fanno assistenza ai disabili, no? Allora, intanto si sente malissimo, sarà magari la distanza, non lo so, il cellulare, magari mi sposto un attimo, vediamo se riesco a trovare un punto un po' più tranquillo. Sì, io sono un assistente igienico personale, mm-hmm, ai ragazzi diversabili. Mi senti? Sì, io ti sento perfettamente. Ecco, adesso va un po' meglio, okay, perché sono uscita un po' fuori, siccome siamo in assemblea, come diceva la nostra coordinatrice, quindi era un po' difficoltoso sentire da lì. Com'è la situazione del tuo lavoro, del vostro lavoro? Siete in appalti? Allora, io posso spiegarti, sì, diciamo, in maniera concreta, che stiamo vivendo comunque delle difficoltà, insomma, parecchio che non ci fanno vivere comunque tranquilli. Noi praticamente ogni anno veniamo riconfermati attraverso una gara d'appalto che la provincia comunque poi dà alle cooperative sociali. Quindi questo servizio viene espletato poi dalle cooperative sociali e noi ogni anno veniamo chiamati, solo che ultimamente, dopo vari anni insomma che siamo stati riconfermati con le stesse cooperative, quest'anno il regolamento ha subito delle modifiche e diciamo siamo a rischio lavoro a giugno di quest'anno. L'appalto scade a giugno e dovrebbe essere rinnovato quindi per settembre. Allora, dovrebbe essere rinnovato, però da fonti ancora da chiarire, comunque, perché noi ci stiamo lavorando un po' sopra, a quanto pare vorrebbero comunque adottare al regolamento delle modifiche che a noi comunque non stanno bene, perché in realtà metterebbe a repentaglio quella che è la nostra figura. Perché da quello che abbiamo saputo, la provincia regionale di Palermo vorrebbe praticamente sostituire la nostra figura di assistenza igienico personale con la figura dell'assistente all'autonomia. E che cosa cambia per voi? Allora, cambierebbe perché diciamo noi il nostro lavoro, se, non so se te lo posso un po' spiegare così, riguarda proprio accompagnare il ragazzo, accogliere il ragazzo la mattina, accompagnarlo in classe, accompagnarlo durante i viaggi di istruzione, eccetera, eccetera. Se la nostra figura verrebbe sostituita dall'assistente all'autonomia, in quel caso questo tipo di assistenza non la possiamo più fare noi, perché noi non siamo comunque qualificati. Ok, cambia proprio la qualifica, quindi problemi di continuità lavorativa, chiaramente. Quindi diciamo il problema fondamentale è questo, siamo un po' preoccupati per il nostro futuro, proprio perché se apportano questi cambiamenti è chiaro che noi non gliela daremo vinta, perché lotteremo fino alla fine. Tra le altre cose, noi abbiamo intenzione proprio di ottenere la riqualificazione del nostro settore, che riqualificano noi come assistenti all'autonomia. Senti, avete già fatto delle lotte, come per esempio l'occupazione della sede locale di Repubblica? Allora, noi abbiamo già parecchie volte, abbiamo avuto degli incontri che comunque ci siamo presi, non sono stati degli inviti da parte del dottore Rizzuto, che è poi il dirigente delle politiche sociali della provincia di Palermo, col quale praticamente abbiamo avuto questi incontri, abbiamo cercato di interagire con lui, di fargli capire quali sono le nostre perplessità in merito a queste modifiche che lui vorrebbe apportare. Chiaramente da parte sua non troviamo disponibilità in questo caso, in questo senso. Ripeto, ogni qualvolta non abbiamo ricevuto l'invito, abbiamo comunque ottenuto quasi con un'azione di forza, perché noi siamo stati in provincia, abbiamo occupato la provincia per un paio d'ore, abbiamo anche occupato le nostre cooperative, che comunque sia da anni ci sfruttano, ci maltrattano, ci malpagano, quindi comunque qualche azione l'abbiamo fatta. Non abbiamo intenzione di rimanere a guardare, perché il nostro posto di lavoro, io ti parlo come donna, oltre al diritto al lavoro, io credo che sia proprio una questione di dignità di donna, perché io non mi sento e non sono solo una madre, una figlia, una moglie. Io sono una donna, ho ottenuto tanti anni fa la parità, la voglio, è un mio diritto, voglio il mio lavoro, voglio essere retribuito come l'uomo. E certo, autonomia comunque lo vuol dire anche il lavoro, no? Come? Vuol dire anche avere un'autonomia di vita. Vuol dire anche avere un'autonomia e vuol dire anche avere un'autostima a volte, perché quando tu non stai bene col tuo lavoro e vivi in una situazione di precariato da anni, questo influisce anche secondo me nelle condizioni familiari, perché vivendo così anno per anno, con la speranza che le cose possano cambiare, diciamo è difficile un po' dappertutto, figuriamoci qui in Sicilia, e senza far nulla, sinceramente non è da me, non è da me, e quindi noi non ci fermiamo. Io ti parlo a nome di tutte le lavoratrici delle cooperative sociali, non siamo solo donne, ci sono anche padri di famiglia, ti posso solo dire che potremmo comunque tenerci in contatto, perché abbiamo chiaramente, ecco, il 6 maggio sarà l'occasione opportuna e giusta per scendere in piazza e comunque scioperare contro questo governo, che ha sicuramente influenzato anche la nostra posizione lavorativa, perché tutto un fattore politico, gira solo attorno alla politica. Possiamo tenerci in contatto, dico, per farvi sapere gli sviluppi della nostra situazione, perché a guardare non ci stiamo più. Tra le altre cose, considerate il fatto che siamo a maggio, siamo a scadenza dell'appalto di gara e noi a settembre non abbiamo concretezze, non abbiamo concretezze, non abbiamo certezze lavorative e non sappiamo di noi cosa vogliono fare. Va bene, Giorgia, senti, sicuramente ci possiamo tenere in contatto e risentirci nelle prossime settimane, così appunto ci racconterete le vostre successive mobilitazioni, sì, anche un po' della gli nostra sviluppi. Situazione, certo, sì, è chiaro. Certo, certo. Va bene, mi auguro di essere stata chiara, molto. È stato un momento presa così da un'assemblea molto, un po', molto, certo, molto un po' complesso chiara. Sicuramente il nostro, però sicuramente devo dire è un lavoro dignitoso, è un lavoro che facciamo da tantissimi anni, è un lavoro per il quale siamo stati tutti qualificati, è un lavoro che poi, voglio dire, ti dà la vita, perché lavorare con i ragazzi disabili, chi non ci lavora, non ci ha mai lavorato, non lo può capire. Va bene, allora ci risentiamo presto. D'accordo, va bene. D'accordo. Okay, grazie mille, un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo e a presto. Grazie da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Salutaceli. A presto. Grazie. Ciao, a risentirci. Ciao. Grazie. E allora, questa che abbiamo sentito era una compagna da Palermo, una lavoratrice precaria delle cooperative sociali. Adesso